L'informazione a cura di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiorno a tutti quanti i radioascoltatori e le affezionate radioascoltatrici da parte di Filippo Glorioso. Un giorno finalmente pieno di sole ed un po' di calore, però nonostante questa ventata di temperature in aumento abbiamo ancora qualche linea di febbretta qua e là, per cui copriamoci ancora bene, non scopriamo le carte, perché se usciamo fuori scoperti, o peggio ancora se la notte ci scopriamo, magari per una notte focosa d'amore, e poi si suda e poi padapumfete, febbre 39,5-40, quindi facciamo attenzione, ancora copriamoci. Come sentite, la mia voce è ancora piena di raucedine, perché anch'io sono stato un po' colpito qualche mese fa da questa imperdonabile, da questi imperdonabili virus che ancora circolano nelle nostre strade, quindi nei nostri polmoni. Detto questo, notizie in generale, un flash, intanto ci associamo al dolore per i caduti in Afghanistan dei 3 militari italiani, 2 dei quali vicinissimi a noi, uno nella provincia di Messina, l'altro su Termini Imerese. Ci associamo al dolore della famiglia, siamo veramente vicini, salgono così a circa 47-48, se non erro, correggetemi se sbaglio, i morti caduti, i nostri militari caduti nell'adempimento del proprio dovere. Questa volta non si è trattato di un'imboscata, ma un lince, che è un mezzo speciale dell'esercito, si è capovolto nel guadare un fiume e quindi i ragazzi sono rimasti imprigionati. Uno si è salvato fortunatamente, si spera insomma che si possa salvare anche questa persona. E per quanto attiene, abbiamo avuto abbiamo avuto 15 giorni di temperature molto rigide, con disagi soprattutto per le persone più anziane. Sono stati messi in moto dei meccanismi di protezione civile, ne abbiamo parlato anche l'altra volta. La cosa sembra che stia un attimo rientrando, non si sa ancora per quanto tempo possa persistere questo stato di torpore che c'è in questi da stamattina. Insomma, il sole che comincia a riscaldare un po' le nostre terre e i nostri cuori, ci auguriamo che continui per un prosciugamento del terreno, altrimenti ancora una volta su Barcellona avremo sulle zone pianeggianti del Catanese, del Messinese, ci saranno, speriamo di no, ancora delle altre alluvioni. Noi abbiamo avuto un contatto telefonico con il vice sindaco, che è anche il capo della Protezione Civile di Barcellona, il quale ci ha ragguagliato sullo stato di disagio e di disastro che si è verificato con l'ultima inondazione nella città della provincia di Messina. Non so se più tardi sarà possibile che la redazione si metta in contatto con il comune, nella fattispecie col vice sindaco, per capire se queste ultime piogge hanno causato ancora danni e a che punto sono gli investimenti su quella parte della nostra regione siciliana. Per quanto attiene la politica, nulla di nuovo, si parla di questo famigerato articolo 18, c'è un confronto serrato, anche duro, tra le parti sociali, quindi tra i sindacati e il governo. Il PDL dice di appoggiare in pieno le mosse che sta portando avanti il nostro governo con la guida Monti, mentre il PD ha qualche perplessità, perché viene toccato molto da vicino, parlando di lavoratori. Ci sono delle sacche veramente pericolose di sbordamento economico, nel senso che molte aziende stanno chiudendo. È una notizia che mi hanno dato l'altro giorno, pensate, sull'Ipari, che è una località balneare turistica per eccellenza. Insomma, si paventano chiusure di negozi, di ristoranti, di alberghi, e insomma c'è una situazione veramente allarmante. Però ci dobbiamo fidare di questo governo, che sta facendo di tutto per portare avanti il blocco che si era preposto di portare avanti nei confronti anche dell'intera Europa, e fin qui insomma hanno avuto dei plausi da parte sia della Merkel che di Sarkozy, ma anche un riconoscimento ufficiale da parte dell'intera Europa. Per il resto abbiamo passato un carnevale, diciamo, sereno, abbiamo fatto dei veglioni, ci siamo anche divertite con le maschere locali che fanno la smancia, cioè che sfottano, prendono in giro la politica locale, soprattutto a Castelbuono. C'è questo modo di goliardico, se vogliamo, di rappresentare la realtà culturale, di costume di quel paese, e devo dire sono rimasto piacevolmente colpito da gruppi che sono 5-6 ragazzi per 4-5 gruppi che si esibiscono nelle quattro sere del Veglione a Castelbuono e che pongono in essere una satira molto pesante a volte, ma ci sta tutta, nei confronti soprattutto dei candidati. Sapete che a maggio si andrà a votare a Cefalù, Castelbuono e altri comuni vicinori e dell'intera regione siciliana andranno al voto amministrativo, e questa è stata poi la leva che ha spinto questi ragazzi a scrivere dei copioni attinenti appunto lo sfottò sulla politica e sui personaggi che la politica fanno in questi comuni, soprattutto a Castelbuono. Quindi un carnevale un po' sottotono, se vogliamo, negli altri paesi, vuoi per il freddo intenso, vuoi per la neve che ha impedito a Gangi e Geraci le manifestazioni goliardiche, che si sposteranno sicuramente domenica, tempo permettendo. Per quanto concerne il resto, sembra che tutto sia nella norma. Ci auguriamo che insomma si rimanga tali, perché se si continua di questo passo non si sa dove andiamo a finire. Prima di dare linea alla regia, volevo salutare e ringraziare una new entry, la Program Graphic, con arti grafiche e stampa, in via Paradiso 66 a Castelbuono. Vi do il telefono per le vostre informazioni, per i vostri progetti: 0921 672606. Prograph, ricordatelo, di Lucia Guarcello, arti grafiche stampa a Castelbuono. Invece, per quanto attiene fare colazione la mattina, o se preferite la sera un buon bicchiere di latte caldo, ragazzi, non dovete far altro che comprare latte con marchio Bergi. Dunque è un'azienda zootecnica, sta andando avanti alla grande, oltre al latte fresco, formaggi, yogurt, è importantissimo lo yogurt, lo yogurt ha molte sfaccettature, ha di diverse gusti, per esempio per chi non ama la fragola o la banana o i frutti di bosco può prendere lo yogurt bianco oppure il latte intero, e vi assicuro che è genuino e buono perché è munto dalle vacche che sono della stessa azienda Bergi, quindi che pascolano sulle Madonie, pascoli incontaminati, foraggio naturale, per cui il latte sarà sicuramente, è sicuramente gustoso, buono. Portatelo nelle vostre tavole, gustatelo, ma prendete anche yogurt direttamente dall'azienda, oppure telefonate a questi numeri che sono lo 0921 44 0673. L'azienda zootecnica Bergi vi porterà a posto casa vostra il latte fresco, i formaggi e lo yogurt. Ricordatevi quindi, Bergi è un marchio ed una garanzia di prodotti genuini che nascono dalle terre, dalle nostre terre, dai nostri pascoli e dalla zootecnia che in questi pascoli si afforaggia. Detto questo, io direi di dare linea alla regia per una breve pausa musicale. Al rientro dobbiamo avere un personaggio importante del mondo della musica leggera italiana. A tra poco. Basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale fa male. Arriva il cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte e il tempo non passerà. arriva la notte, la notte, e resto sola con me, la testa parte, va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte, va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, l'amore può allontanarci, la vita poi continuerà. State ascoltando Carta e Penna in studio Filippo Glorioso, alla console sempre il grande Raul Bova, non Raul Bova attore, ma sapete ormai di chi sto parlando, e dovremmo avere in diretta un grosso personaggio del mondo della musica leggera italiana che ha partecipato a Sanremo col suo gruppo. Stiamo parlando di un gruppo leggendario che ha fatto la storia della musica leggera italiana, ma l'ha portato in giro per il mondo, è anche un autore, tra l'altro dovrebbe essere già in diretta radiofonica e possiamo annunciarlo. Allora, adesso sentirete anche il brano, l'avete sentito nelle tre serate iniziali di Sanremo, è un gruppo storico che ha girato il mondo, ha portato la musica italiana ad altissimi livelli in tutto il mondo, e sto parlando naturalmente di Mattia Bazzar, uno dei componenti, il batterista e anche uno degli autori di questa canzone Sei Tu, il titolo del brano che è stato presentato a Sanremo, è Giancarlo Golzi. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno carissimo, a te e a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando. Intanto sta andando in onda il vostro brano, Giancarlo. Ah, mi fa piacere. Ecco, allora, come stai intanto, come state? Molto bene, siamo già operativi al massimo, stiamo portando avanti quello che è il discorso promozionale con trasmissioni televisive, interviste radio, il lavoro prosegue. Ecco, tu come hai visto, io vi ho seguito e quindi il primo pensiero dopo Sanremo, vi ho lasciato qualche giorno perché poi c'è il dopo Sanremo, le interviste, c'è la stanchezza fisica, lo stress, lo lascio riposare un po' Giancarlo, poi gli rompo le scatole. Allora, Giancarlo, un tuo giudizio tecnico sul Festival di Sanremo dal punto di vista musicale, le canzoni come ti sono sembrate, se secondo te c'era qualcosa da cambiare tra la prima, seconda e terza posizione, o va bene così come la giuria, i voti sono stati convogliati, cioè c'è qualcosa che andava aggiustato o va bene così come è andato Sanremo secondo te? No, allora diciamo che le tre posizioni e le tre donne sono significative e poi comunque sono tre belle canzoni, magari meritava forse un pelino di più Arisa, perché aveva una gran bella canzone, la preferisco a quella di Emma, però diciamo che dai, il risultato può esserci, può starci. Per quanto riguarda l'organizzazione, è stato un po' un Sanremo inventato all'ultimo minuto, perché un po' raffazzonato, dici tu. Sì, perché la presenza di Celentano, che io capisco, è stata una presenza che ha voluto dare per lo share, soprattutto lo no? Share, e hanno avuto ragione perché i numeri gli hanno dato ragione, però è andata un po' a penalizzare quello che era un discorso musicale, cioè quello che riguardava le canzoni in gara, si è parlato tantissimo, si sono riempite le pagine di giornali sulla contestazione, su quello che aveva detto Celentano, invece di parlare un po' di più delle canzoni, di quello che poteva essere lo svolgimento della gara. Però lo sappiamo, ormai la televisione è diventata un contenitore mediatico dove si fa anche un po' di confusione. Ti posso dire, per farti un esempio, che nella serata, le serate ad esempio, noi ci comunicavano la scaletta di esibizione proprio mezz'ora prima, cosa che non è mai successa, invece gli altri anni, le altre volte naturalmente ti dicevano alla mattina avevi già la comunicazione, la tua esibizione sarà alle ore 22:30 per esempio. Quindi avevi maggiore tempo per poterti organizzare, fare le prove. Per le cantanti donne, perché sai, loro hanno bisogno di ore di trucco, di preparazione. Beh, normale. Vestiti, quindi ecco, sotto questo aspetto è stato un po' confusionato. Un altro esempio, il grandissimo Al Jarreau, che è venuto con noi nella performance del giovedì sera. Vi ho sentiti, anzi vi ho visti, bravi, bravi, straordinario, grazie, personaggio. Grazie, guarda, veramente, come dici tu giustamente, uno straordinario personaggio sia sul piano umano che sul piano artistico. Non aveva un camerino, tu ti puoi immaginare un uomo di 72 anni, numero uno del mondo. A Sanremo non aveva un camerino? No, quindi si è seduto in quinta, dietro le quinte, su una seggiola, oltretutto con problemi di salute. Ma non c'è, scusami Giancarlo se ti interrompo, dico, stiamo parlando dell'organizzazione che ha avuto delle defiance, no? Non sarebbe il caso che i vostri manager o le case discografiche e quant'altro facessero delle dimostranze nei confronti dell'organizzazione, del direttore artistico, solo che è dimissionario? Sono state fatte, però quando tu firmi un contratto di partecipazione a Sanremo praticamente devi accettare tutto. Tra virgolette, devi accettare tutto, perché poi il contratto recita che qualsiasi modifica a quello che sarà l'organizzazione dovrà accettarlo. Ma comunque, dai, torniamo alla musica un attimo. Torniamo alla musica. Allora, il vostro brano stupendo, meraviglioso. Tu sei uno degli autori di questo brano. Sì. Ecco, ti vediamo adesso anche nell'immagine. Abbiamo messo su schermo, su screening, quindi ti stanno vedendo tutti. Un brano che è un po', voglio dire, si è un po' distanziato dalla solita melodia vostra di una voce che alza i toni, no? Del do di petto. Sì, che, sì, ecco. Sì, sì, sì. Cosa vi ha spinto a scrivere un brano che si discosti un po' dal... Ti dirò, questo non è un brano tipicamente sanremese, è un brano che ci rappresenta in questo momento di grande felicità artistica tra di noi. E noi addirittura, guarda, l'abbiamo mandato così, più che altro pro forma all'organizzazione, senza convinzione che fosse una canzone sanremese, ma convinti invece che fosse una bellissima canzone che rappresenta la storia dei Mattia Vazzani in questo momento. E così è stato, all'ultimo momento siamo stati chiamati dall'organizzazione, abbiamo dovuto mettere insieme tutto quello che era l'organizzazione sanremese e ci siamo presentati. Devo dire che c'è un grandissimo riscontro da parte della gente, da parte di consensi. Ti confermo Giancarlo, te lo confermo. E questo mi fa piacere che i tuoi ascoltatori ti diano conferma di quello che sto dicendo. Mi fa felice. Ma ti dirò di più, io ero davanti alla televisione a casa, sono arrivati degli amici che a cui io amo molto anche il soul, il rhythm and blues e il blues, perché sì, ho fatto una tournée adesso con un personaggio che un giorno ti presenterò, che è stato riconosciuto a livello europeo uno dei bluesmen più acclamati in Europa, con 18 elementi che hanno suonato con Gian Betz, che hanno suonato con personaggi grossi della musica soul e blues americana. Lui si chiama Joe Castellano, è anche un compositore. Sì, lo conosco. Con Joe abbiamo fatto una tournée, ti assicuro c'era gente che ama il jazz come il blues eccetera. Beh, sentendo il vostro pezzo, quando abbiamo capito che non entravate nella top 10, ci siamo guardati in faccia, ho detto peccato perché è una bella canzone. Ma di solito succede che quando non si va avanti a Sanremo poi il brano esplode nelle discoteche. diciamo che sei d'accordo, sì, come è successo a Vasco Rossi, a Zucchero, bravo, ancora noi stessi con Vacanze Romane, Brivido Caldo, ma anche posti delle classifiche magari non sempre premiano, invece in questi casi quando siamo arrivati settimi, ottavi, e poi sono stati un mese dopo. Beh, ma Vacanze Romane avete fatto una strage, insomma, avete avuto brani stupendi, e questo secondo me è un altro cavallo di battaglia di Mattia Bazzar. Ma assolutamente, sono convinto anch'io, come ti dicevo prima, è una canzone che ci rappresenta in questo momento artistico, noi siamo felici, adesso stiamo facendo promozione, abbiamo anche un calendario che prevede dei concerti all'estero e poi prepareremo la tournée italiana. Diciamo che nonostante la crisi generale che attanaglia il nostro mondo della musica, le cose vanno bene, insomma. Giancarlo, una domanda tecnica: tu sei un compositore, sei un musicista, insomma, eccetera. Io non sono molto convinto di questa straordinaria bravura di tutti i talent scout che escono fuori dai format televisivi. Secondo me ci vuole la gavetta fatta in un certo modo, poi posso anche sbagliarmi. Qual è il tuo giudizio sui talent scout che sono andati avanti invece su Sanremo? È il secondo anno quest'anno. Ma allora, da una parte non abbiamo altre possibilità se non che appunto a i bozzare. Vari factor o amici. Dall'altra, certo, vengono presi dei ragazzini, fiondati in televisione, si ritrovano una popolarità immediata, improvvisa, quando bisogna avere l'esperienza per gestirla questa popolarità. Bravo Giancarlo, E mi ricorda questa tipologia di lavoro in cui centinaia di ragazzi vengono provinati, mandati in TV. Mi ricorda un po' il video dei Pink Floyd quando i bambini cadevano nel tritacarne. Lo stavo dicendo io. No, io parlavo di tritacarne, non menzionavo i Pink Floyd. Un'ultimissima battuta, Giancarlo. Hai parlato di tournée all'estero, farete sicuramente la tournée in Italia. Ti volevo chiedere una cosa. Dopo la tua intervista avrò il maestro Adriano Pennino, che tu conosci benissimo. Che il è un grande Adriano. E Adrianuccio è. Diciamo, ti faccio l'intervista, vedi, ti chiamo più tardi, hai capito? Sai che lui è tutto pacioso, no? Tutto tranquillo. No, volevo chiederti questo invece: il ripescaggio di Gigi D'Alessio con Loredana Bertè. Secondo te cos'è successo all'inizio per poi essere ripescato? C'è stato un qualcosa dietro le quinte oppure. No, non te lo so dire, no. Non te lo so dire. Lo chiederò ad Adriano. Non te lo so dire perché sono meccanismi contorti. La stessa Rai si premura di dire ogni volta che annuncia il televoto, la Rai dice non sono stati individuati strumenti idonei a tutelare la serietà del televoto, si chiede al pubblico e quindi è lei stessa a mettere le mani avanti. Quando si entra nel discorso contorto del televoto, noi lasciamo tutto quanto, ci tiriamo fuori dai giochi. Noi siamo ancora sotto, tra virgolette, degli ingenui. Noi siamo ancora, dopo 37 anni di carriera artistiche, passano le notti. E che carriera, Giancarlo? E che carriera? A fare degli arrangiamenti, a curare il tutto nei minimi particolari. E forse siamo degli ingenui, perché tutto sommato oggi le cose magari non funzionano più così. Però noi ci crediamo nella musica e voglio finire la mia carriera, non so tra quanti anni, però in questa direzione. Con le stecche della batteria in mano, Giancarlo. Esatto, bravissimo. Senti, io ti lancio proprio. No, ma voglio dire, intanto vi faccio un tantissimo in bocca al lupo per le vostre tournée. Grazie. La speranza che io possa incontrarvi fisicamente in Sicilia o da qualche parte in Italia, forse ci sarà quest'anno, speriamo che non capitino dei cataclismi che succedono nella vita. Veramente. A voi auguro tantissima fortuna, siete dei personaggi straordinari, io ti conosco radiofonicamente, però si evince che sei una persona a modo, una persona non voglio dire senza fronzoli, ma semplice, e in questa semplicità avete raggiunto grandissimi successi. Vi auguro di raggiungerne tantissimi ancora, Giancarlo. Grazie, sei molto gentile, carino. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione. E noi quella ce l'hai, Giancarlo. Ci fidiamo. Quella noi ce l'hai. Ci appoggiamo sulle radio serie come voi che trasmettono. Poi magari anche che non trasmettono i Mattia Vazzar, ma se credono che i Mattia Vazzar abbiano fatto un buon lavoro e la canzone è una canzone che rappresenta i Mattia Vazzar, noi contiamo molto sul vostro aiuto, perché siete voi proseguimento del festival. Giancarlo, io ho una fortuna di avere un editore che è una persona intelligente. Voglio dire, ti ho detto tutto. Ti voglio strappare per un appuntamento, Giancarlo, da qui a qualche mese, prima che iniziate la tournée. Io avrei il piacere di intervistarvi tutti quanti, insomma, il assolutamente gruppo. Assolutamente sì. Me la lasci questa. Un appuntamento, ma per Vacco, con grande piacere, sarà un piacere nostro. È sempre una gioia ascoltarvi, un piacere sentirvi, ma soprattutto è con immensa gioia che ti ospito sempre nel nostro programma e nella nostra radio, Giancarlo. Grazie. Quando vuoi, fatti sentire, siamo a tua disposizione. Buona vita a tutti quanti. Grazie altrettanto a te e ai tuoi colleghi. E ai tuoi colleghi. Un bacione grande a tutti. I Mattia Ciao. Bazzar, via col brano. Cosa resterà? il cuore. Rieccoci in diretta sui 101.4, ma potete seguirci anche su Facebook, su streaming facendo www.crmepiradio.it. Abbiamo sentito uno dei componenti fondamentali, insomma, Giancarlo Golzi, il batterista dei Mattia Bazar, esternare un po' quello che secondo lui è stato Sanremo dal punto di vista musicale, dal punto di vista anche organizzativo. Abbiamo un po' divagato a destra e a manca per avere un quadro chiaro di quello che abbiamo avuto come impressione noi nel vedere Sanremo. Tra pochi minuti dovremo avere anche in diretta uno dei direttori d'orchestra di Sanremo, che è anche produttore artistico, cioè dire un compositore, un arrangiatore musicale, arrangia le musiche di Mina, di Giorgio, di Gigi D'Alessio, da Tatangelo, e infatti l'avete sentito chissà quante volte quando cantava Loredana Bertè con Gigi D'Alessio, insomma, dirige l'orchestra era il maestro Adriano Pennino. E allora, in attesa che la regia si metta in contatto, perché oggi abbiamo accentrato l'attenzione di questa puntata su Sanremo? Perché ci sono state delle polemiche, soprattutto per quanto attiene Celentano, le esternazioni nel dire che due testate giornalistiche, l'abbiamo detto anche nella puntata precedente, andavano chiuse, riguardava due testate giornalistiche cattoliche della Santa Sede, Famiglia Cristiana, insomma, Avvenire. E Adriano esterna sempre quello che pensa, la seconda serata è ritornato sui suoi passi, rimbangando ancora una volta questa denuncia, e lì insomma, sono stati, oltre che gli applausi, anche i fischi. L'attenzione si è anche concentrata su Belen, questa farfallina sul linguine, non si sa se c'erano o non c'erano le mutandine, punto interrogativo. Insomma, Sanremo si è un po' allargato su altri campi. Mi dice la regia che dovrebbe esserci in diretta radiofonica per telefono il maestro Adriano Pennino, che ringrazio e saluto per aver accettato l'intervista. Adriano, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Come stai? Ciao. Bene, bene, tutto bene. Ti abbiamo visto bene in televisione, sorridente, insomma, rilassato, si fa per dire. Sorridente sempre, la cosa principale, sorridere alla vita, la cosa più bella. Ma poi tu sei partenopeo, sei napoletano, sei solare, Adriano. Ascoltami, 5 minuti fa abbiamo avuto in diretta Giancarlo Golzi, che tu conosci perfettamente, che è il batterista dei Mattia Bazar, no? E ti saluta, mi ha detto. Lo so, mi ha detto salutami Adriano, visto che ce l'hai dopo di me. Allora, Adriano, intanto un giudizio analitico tuo a posteriori sulle canzoni in generale e sulla musica di Sanremo. Come ti è sembrato quest'anno? Ma sai, dare un giudizio ancora a caldo, insomma, ancora a camicia sudata, come appunto si dice a Napoli, così, è sempre difficile. Molte volte uno deve vedere dopo 5-6 mesi che cosa rimane poi effettivamente di un festival. Per esempio, l'anno scorso è rimasta la canzone dei Modà con Emma, sì. Forse il pezzo di Vecchioni, cioè di tutte le canzoni sono rimaste 2-3 cose, insomma. Io penso che pure quest'anno sia così, alla fine, sai, è sempre così. Cioè, non tu voi che siete, che una radio siciliana è come il Gattopardo, sembra sempre che cambi tutto e poi non cambia mai niente. È questo, la polemica. Sì, ne abbiamo parlato con Giancarlo Golzi di tutto quello che è stato Sanremo nel bene e nel male, soprattutto con l'esternazione di Celentano, e poi la farfallina lì del linguine, che insomma ha attirato l'attenzione dei mass media più che forse l'attenzione sulle canzoni. Non solo dei mass media. Lo so, degli occhi di tutti. Ti do una battutaccia, ti faccio una battutaccia, Adriano. Tu sai quanto io ti rispetto e quanto io ti voglio bene professionalmente, ma soprattutto sotto il profilo umano, perché sei una persona, sì. Ecco, sei una persona, come diceva Giancarlo, semplice, non ti sei mai montato la testa, nonostante i tuoi trascorsi artistici che la dicono lunga sulla tua professione, su quello che sei come arrangiatore musicale, come compositore e come direttore d'orchestra. Ma no, è la realtà dei fatti. Nonostante questo, tu segui da vicino, infatti a Sanremo dirige l'orchestra quando canta uno dei tuoi beniamini, che è, insomma, Gigi D'Alessio. Ascoltami, sì. C'è stato un momento, questa canzone a me è molto piaciuta personalmente, ma conta poco quello che piace a me. Secondo te perché non è stata inserita a pieno titolo nelle prime 3-4 posizioni? Intanto ti devo dire che invece è stata inserita dal popolo, è stata inserita nei primi tre, che poi i giornalisti hanno fatto questa specie di gap, insomma, per cui questo viene retrocesso al quarto posto, va bene, tanto è tutto un gioco, è tutto. Però devo dirti, lui è entrato di diritto nei primi tre più votati, insomma. Poi ci sono delle cose strane, appunto sto televoto in qualche maniera delegittimizza il popolo e dice no, questo viene retrocesso e sale Emma, cioè sale Noemi, che per carità è veramente una delle artiste più importanti e più promettenti italiane. In Italia, però sì. Voglio dire, se vogliamo parlare veramente di sovranità della votazione, sta cosa mi sembra veramente un po' strana. Io auspicherei veramente un ritorno di una giuria di qualità, ma non una giuria di qualità così per dire, cioè tipo prendere tipo 4-5 elementi per ogni categoria, a partire dai DJ, a finire ai direttori d'orchestra, alle radio, come si faceva una volta, veramente le canzoni come vanno analizzate, perché non puoi fare una giuria un po' demoscopica, un altro poco la fai televoto, un altro poco i giornalisti, cioè mi sembra una mezza insalata. Questo forse è stata la nota più dolente di questo festival. Una domanda che ho fatto anche a Giancarlo Golzi: io posso, sono per sommi capi d'accordo che i talent scout che escono fuori dai format televisivi della De Filippi, per citarne una, no? Di Amici, per esempio. Ma secondo te non si rischia di mettere, come diceva Giancarlo Golzi, sono d'accordo con lui, tutto nel tritacarne in maniera molto veloce e tritarli insieme? Ma certo, infatti dico, io sono d'accordo, pure perché questa è un'altra delle incongruenze di questo festival. Voglio dire, io c'avevo anche una giovane nelle nuove proposte, così era Giordana Anci, insomma, che ha fatto un pezzo particolare, sì. Cioè una che ha mandato un provino pianoforte e voce, è stata scelta per la particolarità della proposta, però poi improvvisamente si scontra con una persona che c'ha già un fan club pari a quello di Gigi D'Alessio, per dirti, perché è stata 3 anni a Io Canto, e quindi voglio dire è veramente anche lì, per esempio, vedi, il televoto c'ha senso fino a un certo punto rispetto a una proposta artistica. Sicuramente un ragazzo bravo, il pezzo carino, è una scelta molto manieristica. Io per esempio sicuramente sono di parte, perché ho diretto la ragazza, però secondo me bisognava anche premiare un pochettino la particolarità. Se tu lo fai solo col televoto è normale che questa ragazza perde, perché è un'emersa sconosciuta rispetto a un divo della TV che è stata 3 anni in un contest tipo Io Canto, per dirsi, faccio nomi, tanto voglio dire, non è che no, vabbè, c'è anche la De Filippi con Amici, che non è che scherza, insomma, sì, voglio dire. Lo stesso vale per le persone che escono da un talent, cioè, è la stessa cosa. Io perciò ti dico, auspicherei un ritorno molto, cioè, al di sopra delle parti come giuria, perché così veramente ti rimane sempre un po' di amaro in bocca, insomma, contenti delle persone, scontenti altre, un po' più di giustizia, insomma, vorremmo. Sì, no, ma sì, giustizia è una parola grossa, però un po' più di coerenza nella votazione. Almeno questo. Senti, nella canzone A Due che ha presentato Gigi insieme a Loredana Bertè, Gigi ha rilasciato un'intervista in televisione l'altro giorno dove diceva che secondo lui, non so se l'ha detto per un senso di rispetto, di riguardo per una cantante che comunque ha segnato anche lei la storia della canzone e la musica leggera italiana, e parlo della Bertè nella fattispecie, ha scelto la Bertè perché con la voce che si ritrova era l'unica che potesse cantare questa canzone. In realtà stanno così le cose, o c'è stato un senso di affetto, sicuramente affetto, rispetto, però ti dico, loro prima non si conoscevano. In effetti, quando Gigi ha composto il pezzo, che stava agli inizi proprio della composizione, così ci siamo guardati, secondo te chi lo potrebbe cantare questo pezzo insieme a me? Cioè, voglio dire, la prima idea, così per ridere, Tina Turner. Tina Turner e Loredana Bertè, lei veramente ha una grinta pazzesca ancora, nonostante 10.000 disavventure di vita, così è veramente una grande artista, una grande grinta, e ha cantato, per dirti, anche Almeno tu nell'universo, cioè, all'inizio non lo voleva cantare evidentemente, perché pensava ad un confronto con Mimì, però sai, per esempio, ci sono delle cantanti, degli artisti che vanno oltre oltre il canto, cioè il canto non sono solo le note, non è solo il c'è l'anima dietro, Adriano, è la somma di tutto quello che hai vissuto in 4 minuti, cioè voglio dire, quando tu più sei interessante, più sei controverso, più riesci a mettere dentro quello che fai tu. tutta la tua vita, allora sei veramente una persona che puoi emozionare. Adriano, io sono rimasto, ma l'ha detto anche la Iva Zanicchi in televisione, e sono, io l'avevo pensato durante il festival, mi aspettavo che in queste 5 giornate quantomeno si rimangassero personaggi che hanno fatto grande la musica nel mondo. In ultimo c'è stata anche la dipartita purtroppo della Whitney Houston, ma non se ne è parlato assolutamente, non si è parlato di cantanti italiani che hanno fatto la storia, tranne una fugace Toccata e Fuga su Modugno. Non credi che ci sia stata una mancanza di stile in questo? Ma sai, sì, forse di Whitney Houston giusto che era una cosa fresca, però io dico hanno ricordato Modugno, un altro anno hanno ricordato Paoli, un altro anno ricorderanno Conte. Io non penso che debba essere per forza un appuntamento dove si celebra tutte le volte tutte le persone. Un anno si può celebrare. Pronto? È caduta la linea. Vabbè, vediamo se riusciamo a ripescarlo, se no ci salutiamo qui con Adriano, e Adriano sta raggiungendo Napoli in macchina, per cui è facile che si sia perso il contatto. No, dicevo, la poca delicatezza nel momento nel quale viene a mancare, dice, ma è americana, ho capito, però è sempre un'icona della musica internazionale. Whitney Houston non si discute né come voce né come artista né come attrice, tra l'altro ha fatto un bellissimo film che ha avuto un grande successo tra l'altro di critica negli Stati Uniti, e l'abbiamo visto anche qui in Italia. Adriano è d'accordo su certe situazioni che si sono verificate a Sanremo? Volevo porre un paio di domande ancora, poi purtroppo l'linea è andata via perché ci si sposta con la macchina, magari avrà preso una galleria e non ci siamo più sentiti. Dicevo, si conclude nel bene o nel male. Rocco Papaleo a me è molto piaciuto, non so se chi ci sta ascoltando ha avuto la stessa mia impressione. Sobrio, battute non per forza volgari, battute semplici, insomma, carine, graziose, e un po' impacciato il conduttore, ma è dovuto al fatto, non buttiamolo sull'età, come ha detto qualcuno, a 70 anni, perché Celentano, insomma, all'età di 74 anni riesce a fare dei monologhi straordinari, per cui non è questione di età, è questione che magari essendo il secondo anno, sempre Sanremo, una grossa responsabilità sulle spalle, questo lo posso capire, perché sei sulla prima rete, la rete ammiraglia della Rai, a presentare di fronte a milioni di telespettatori, per cui no, mi dice la regia che non è possibile ripristinare il contatto con Adriano, vabbè, lo sentiremo un'altra volta, pazienza. Dicevo, c'è stato qualche momento di frizione, di sbandamento da parte di Gianni Morandi, ma è comprensibile, lì va anche perdonato. Tutto sommato è stato molto sobrio, è stato molto elegante, carino anche nella conduzione. E adesso, prima di lanciare il brano Respirare di Gigi D'Alessio e Loredana Bertè, io ritengo sia giusto parlare un attimo, c'è una telefonata in arrivo, vediamo se si tratta di Adriano. E Adriano? Mi fanno cenno di sì. Ecco, ha chiamato lui, insomma. Pronto Adriano? Lo so, avevo già dato spiegazioni da ascoltatore. No, due domande a chiudere, perché sennò poi finisce che ci interrompiamo così e non è piacevole. Dunque, intanto ti chiedo una battutaccia da parte mia, perché ti voglio bene, tu lo sai, ma dico, con tutto il rispetto che ho per il maestro Versicchio, ma è mai possibile che dirigeva sempre Versicchio? Ma tu dove stavi? No, sto scherzando. Sono lavori differenti, io sono un topo di studio, il mio lavoro non è dirigere. La direzione d'orchestra, sì. Cioè, diciamo che è un imprevisto il fatto di dirigere, infatti molte volte vado a dirigere delle cose che ho realizzato, ma il mio vero lavoro è quello lì di fare dei dischi. È vero. Mentre invece Peppe è uno soprattutto che ha a che fare con l'orchestra, che dirige anche cose che ma la mia era una battuta di scherzo, perché volevo vederti sempre lì davanti, invece vedevo sempre Versicchio, con tutto il rispetto che ho per il maestro, che è una bravissima persona, ci mancherebbe. Siamo molto amici, ci sfottiamo, no? Siamo amicissimi ed è un grande professionista. Allora, due domande, chiudiamo veloci la risposta, non vorrei che venisse tagliata la linea un'altra volta. Intanto ti chiedo che cosa c'è nel calderone, cosa stai preparando per l'estate, uno. Seconda cosa, quando avremo la possibilità di poterti riabbracciare in Sicilia, due. In Sicilia sicuramente ritornerò, anche spero di tornare per le vacanze e anche prima, perché c'ho un po' di cose da fare, insomma, scuole che in qualche maniera ti hanno coinvolto così, sì, mi hanno coinvolto, quindi farò sicuramente un salto giù quanto prima, insomma. Mentre invece l'altra domanda qual era? Cosa bolle in pentola? Sì. Cosa no, stai preparando? C'è un po' di cose, c'è un po' di dischi da fare, un po' di archi, tra l'altro mi hanno chiamato delle produzioni straniere, proprio per fare gli archi, pensa com'è strana. Cioè, sabato registrerò per degli archi per una cantante bosniaca che farà l'Eurofestival, si chiama Maya Isard. E poi invece mi ha chiamato pure una produzione messicana sempre per fare gli archi. Insomma, Adrià, ti stiamo perdendo. Aruai, devi stare con noi. No. E poi seguo sempre dei giovani miei, delle cose. Oltre a far lavorare come Alessio, come Morandi, o piuttosto che voglio dire altri cantanti, così cerco anche di seguire un po' di cose mie. Ti posso fare una domanda, so già la risposta, ma avremmo mai il piacere in questa radio a CRM Happy Radio e in questo programma di poter sentire la voce di Gigi D'Alessio per un'intervista? Basta chiederlo, cioè lui quando si muove che viene in Sicilia, lui è un appuntamento fisso alla Sicilia, quindi sicuramente lo beccherete più facilmente voi. Io sono stato 3 mesi notte e giorno con lui, notte e giorno. Anche a letto la sera, complimenti. E poi adesso c'è un po' di stacco, giustamente, proprio che il sale del rapporto, quello di non vedersi poi per un po'. E allora facciamo così, siccome io non ho il numero diretto di Gigi, disturberò te, tu mi farai da tramite, se mi fai questa gentilezza, noi lo accettiamo con mezza felicità, perché è un personaggio insomma straordinario, al di fuori del campo anche musicale, voglio dire, è bravo cantante, volentieri, ma straordinario come persona. Adriano, io ti ringrazio sempre affettuosamente per la tua disponibilità a partecipare al nostro programma. Spero di vederti presto e che ti devo dire, tantissima in bocca al lupo per il tuo lavoro anche di levatura internazionale, un grande riconoscimento che la musica internazionale fa nei confronti di un grande maestro come te. Ti ringrazio, sei sempre gentile, spero solo di vederti presto. Un abbraccione Adriano, un bacio ai piccoli. Grazie a te, a prestissimo, grazie. Ciao tesoro, grazie. Buon lavoro, ciao. Adesso il brano giustamente di Gigi D'Alessio insieme a Loredana Bertè che hanno presentato a Sanremo, quindi prego la regia di mandarli in onda. Sei unica guerriera, non ridi mai, prova un po' ad amare e amati di più, non è sempre uguale, lui non c'è più, è un passato da bruciare, torna ad essere di nuovo ancora tu. Io non voglio amare, solo libertà, sono chiusa a chiave e ci resterò, so di farmi male, male non mi fa, voglio stare sola, così mi va, non trovare più parole, sono un muro forte che non crollerà. Respirare ad occhi chiusi, prova a farlo anche tu. La mia ragione si farà sentire e ciò che conta non c'è niente di più. Ci sei ma non ci sei, non cambio idea per davvero, ragioni non ne hai, prova a soffrire anche tu, perché star male, bugiardi come la luna, noi siamo ancora qua. Falsa libertà, apriti alla vita, io sono qua. Siamo sole temporanee, sarò vento che il tuo fuoco accenderà. onda, sempre 101.4, la modulazione di frequenza CRM e Piredio Radio che si sente e si vede perché se andate su www.crmpiredio.it potete anche seguirci in diretta oppure scriveteci le vostre impressioni su Facebook. Il nostro telefono è 0921 423 45 e 6. Dunque, per richiedere una canzone direttamente dal nostro sito, lo potete fare anche sul stesso che vi ho dato prima, www.crmpiredio.it. Siamo a totale disposizione dei nostri grandi ascoltatori che so che ci seguono sempre con tanto affetto e tanto amore. Leggendo quella si evince che bisogna rispettare gli animali, sono esseri viventi, in quanto tale vanno rispettati, non soltanto i cani, che è l'oggetto del contendere di questa notizia, nel senso che un proprietario appestato a sangue il proprio cane e addirittura si è scagliato contro una persona che era intervenuta per salvaguardare il medesimo e mi pare insomma è stato arrestato perché per maltrattamenti ad animale e poi perché insomma ha picchiato anche una persona. Bisogna avere delle sensibilità, spesso non bisogna dimenticare che i cani sono gli esseri più affezionati all'uomo e spesso hanno anche salvato con la propria vita, dando la propria vita hanno salvato l'uomo. È una notizia che mi lascia veramente la mano in bocca, perché se uno ha un cane, se uno piace mostrarsi in giro con il pastore tedesco, col chihuahua a passeggio, insomma bisogna che questi esseri viventi, non chiamiamoli animali, io li chiamo esseri viventi, vengano rispettati meglio secondo me degli esseri umani, perché gli esseri umani hanno la cattiveria insita nel loro DNA, mentre gli animali di solito attaccano quando, per difendersi, perché c'è qualcosa che non quadri. Ieri sera ho visto un video su un cacciatore che stava attaccando per uccidere un rinoceronte e pur essendo questo miope, cioè poco vedente, si è scagliato fino al punto di ammazzarlo, quindi si è difeso. Viceversa, se gli animali vengono rispettati, se vengono lasciati, anche la vipera stessa, se viene lasciata senza importunarla, beh, non si scaglia contro l'uomo. Per cui se si scagliano gli animali contro l'uomo non è perché hanno atavicamente o nel DNA un microchip che gli scattano appena vedono l'essere umano, no. Loro sono molto istintivi, se saputi curare, se saputi prendere nel giusto modo non succede nulla. È chiaro, poi ci sono specie animali, tipo i felini come i ghepardi, i leopardi, le pantere, i leoni, che possono essere imprevedibili, come gli orsi sono imprevedibili, però voglio dire, deve esserci sempre un qualcosa che scateni in loro la rabbia e che, per scagliarsi contro l'uomo. Invece l'uomo, senza motivi apparenti, magari avrà avuto dei problemi personali e se l'è presa con questo povero cane picchiandolo a sangue selvaggiamente, recita l'articolo, e poi se l'è presa anche con una persona che è intervenuta a salvaguardare salvaguardare il cane stesso. Quindi abbiate cura se avete degli animali a casa, non abbandonateli per strada, soprattutto in prossimità dell'estate, delle vacanze. Adesso con il discorso economico, la regressione, molti non andranno in vacanza, ma a questo punto prendetevi ugualmente cura dei vostri animali, cercate di curarli, perché ripeto, soprattutto i cani sono molto sensibili e molto vicini all'essere umano, a costo anche di dare la propria vita. L'hanno fatto spessissime volte, hanno salvato vite umane a discapito della propria vita, non stanno lì a pensarci come fa l'uomo, mi tuffo o non mi tuffo, il cane si tuffa per istinto per salvare il proprio padrone, quindi meritano il massimo del rispetto. Detto questo, vi do lettura di alcuni sponsor di Varese, per esempio per cessazione attività, liquidazione straordinaria di scarpe, borse, uomo, donna, bambino. Le firme, insomma, abbiamo per i bambini Primigi e Lulu, per gli uomini Geox, Carlo Pignatelli. Dunque potete andare a Castelbuono da Di Varese, fino al 70% di sconto ed oltre in questo periodo per cessazione attività. Questo succede a Castelbuono. Invece, se volete divagarvi un venerdì, sabato e domenica, dove andare al Geranio, ristorante, pizzeria, albergo, in questo momento possediamo 16 stanze, 16 appartamentini, ma saranno allargati, arriveranno circa 30-35, c'è la piscina all'interno di questo residence, poi c'è la ludoteca dove potete mettere i vostri ragazzini mentre voi fate il bagno, il mare pensate la vede a 20 metri appena, oppure rilassarvi in piscina come vi pare. Poi per quanto attiene il pranzo o la cena potete scegliere tra il pranzo pranzo, cena o la pizza. La pizza è fatta rigorosamente al forno, quindi un gusto straordinario. Vi consiglio il geranio come pizza. Invece i primi piatti, chiaramente essendo da 20 metri dal mare, sono tutti a base di pesce, quindi con gamberi, pistacchio per esempio, oppure il pesce spada grigliato, oppure la griglia mista di pesce, che sono, voglio dire, soltanto a pensarci e l'ora di pranzo viene l'acquolina in bocca. Dove trovate il geranio, dove trovate tutto questo relax, queste possibilità? Il campo di calcetto, pensate, anche il campo di calcetto, se vostro marito piace fare dello sport, beh, lo può fare anche lì, ma anche le donne possono giocare a calcetto. È incontrata Buffone Marina accanto al campo sportivo di Acque Dolci. Vi ricordo l'appuntamento telefonico importante, 339-222-3813, ripeto 339-222-3813, per fare le vostre prenotazioni. Il geranio, non scordate questo nome, avete modo di poterlo visitare, di gustare i piatti che vi propone, ma soprattutto un mare stupendo e una piscina di tutto relax. E adesso invece, per tagliare la bolletta della luce, cosa bisogna fare? Chiamare il numero verde 800-111-341. Perché vi parlo di questo numero? Perché vi risponderà un'azienda leader nel settore, che è Media Elettra di Badalamenti, in via Ugo La Malfa 61 BCD a Casteldaccia, in provincia di Palermo. Pensate, vi arriveranno i tecnici sul posto, vi faranno il preventivo e con il sistema SunPower, l'azienda che garantisce l'installazione per 20 anni, quindi non soltanto vi installa il fotovoltaico, nella fattispecie lo chiamiamo, insomma, i pannelli solari, chiamiamoli così, ma vi permette non soltanto di risparmiare sulla bolletta, di tagliare la bolletta di un buon quantitativo di soldi, ma nello stesso tempo, a distanza di tempo, voi producete energia elettrica superiore a quella che necessita al vostro fabbisogno. Bene, l'Enel vi paga tranquillamente l'energia che voi stessi producete. Ricordate questo numero verde 800-111-341, Media Elettra, e soprattutto il sistema SunPower, leader a livello nazionale. Media Elettra lo trovate, dicevo, in via Ugo La Malfa 61 BCD a Casteldaccia, in provincia di Palermo. Invece, a Termini Merese, per gustare dei piatti, se volete portarvi a casa del cucinato già precotto, pronto per l'uso, beh, dovete andare ai Sapori di Mare, ristorante frutti di mare ricci, crostacei, cotti e crudi, pesce fresco. C'è anche la vendita diretta e asporto frutti di mare, pietanze e salse a base di pesce, anche su ordinazione. Menù personalizzati per cene e pranzi di lavoro, compleanni e ricorrenze varie. Servizio catering, questo è importante, aperto tutti i giorni pranzo e cena. Dove lo trovate il ristorante ai Sapori di Mare? Lo trovate in lungomare Cristoforo Colombo 8 bis a Termini Imerese. Per informazioni, per le vostre richieste, per le vostre ricette, insomma, fate lo 091 81 11 447. Un albergo di tutto riguardo, di tutto prestigio, insomma, di Psigro Palace Hotel, lo trovate a Castelbuono. Lì troverete cucina internazionale, un bar assortitissimo, ma soprattutto stanze super accessoriate e un panorama mozzafiato, perché vi affacciato sul Parco delle Madonie. Lo trovate a Castelbuono. Il Psigro Palace Hotel è a 4 stelle, quindi, voglio dire, c'è anche il giusto blasone, in via Cefalù 111 e via Mazzini 2, e al numero 0921 giusto 676007, sempre a Castelbuono. Poi vi ricordo un appuntamento importante a Gangi con la macelleria di Farinella della cooperativa IACC. Ve lo ricordo perché trovate carne selezionata, trovate salsiccia anche stagionata, formaggi di tutti i gusti. La cooperativa Farinella, la cooperativa IACC di Farinella è una macelleria, potete trovare, voglio dire, dalla carne di maiale alla salsiccia, trovate anche i tramezzini, potete trovare cioè tutto quello che necessita per il vostro fabbisogno. Se tutto quello che vedete davanti alla vetrina non vi dovesse soddisfare, beh, basta fare una richiesta e vi verrà confezionato sul posto davanti ai vostri occhi la carne a vostro piacimento. Ricordate questo nome, cooperativa IACC di Farinella a Gangi, mi raccomando. Come anche il gioiello, per un regalo, insomma, un orologio Philip Watch oppure Burova, insomma, ha delle marche straordinarie. I capezzali, che sono olio su tela, da poter andare a acquistare. Capisco che oggi, insomma, i soldi servono, però un regalo lo si fa sempre, anche se di modeste dimensioni. La gioielleria assortitissima, con firme prestigiosissime. Il gioiello lo trovate anche questo a Gangi Alta, sempre a Gangi, in provincia di Palermo. Io avrei finito la mia puntata di oggi, vi ringrazio, ringrazio gli ospiti di Giancarlo Gozzi, il batterista e il uno degli autori della canzone che hanno portato a Sanremo, da cui auguro tantissima fortuna per il loro brano, per quest'estate, per le loro tournée. Ringrazio parimenti il maestro Adriano Pennino, l'avete sentito in radio, gli auguriamo tantissima fortuna e felicità, se lo merita, perché è una persona straordinaria, indipendentemente dalla pertinenza che lui ha nel campo musicale, perché vi assicuro è un grande, grande, grande compositore. Quindi grazie anche a loro, grazie a voi per essere stati in ascolto fino a questo momento. Sono in questo istante le 10 minuti circa, minuto più minuto meno, l'appuntamento con la replica è domenica dalle 9:30 in poi, e invece con la diretta giovedì prossimo, stessa ora, stesso programma. Grazie anche agli sponsor, un abbraccio a tutti, buon weekend da parte di Filippo Glorioso, ciao, a risentirci. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di